Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Primi, torniamo in voce qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. E quindi benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Do It Yourself Invasion, la trasmissione del giovedì sera. Che si propone come... come spazio libero concentrato su tutto quello che è l'autoproduzione musicale e non solo. Ricordiamo brevemente i contatti della radio. E quindi oltre gli 87.9 in FM di Roma e dintorni potete ascoltare la radio in diretta streaming attraverso il sito raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati con tutte le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni. E quindi andando a cliccare sul palinsesto, quindi sul giovedì, e sul link di Do It Yourself Invasion, potrete ascoltare i podcast passati. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info, dove potete segnalarci le vostre iniziative, farci conoscere le vostre autoproduzioni, nonché anche quello che ascoltate. Quindi se avete proposte, scrivete. Radio Onda Rossa, radio libera nell'etere dal 1977, senza padrini, senza padroni, e che va avanti senza pubblicità e anche senza una lira. radio che va avanti grazie al libero, libero contributo di redattori e redattrici. E progetto che potete, potete sostenere. E così per far sì che Radio Onda Rossa continui libera nell'etere, potete sottoscrivere attraverso il sito della radio, quindi sempre al www.ondarossa.info, andando a cliccare su sostieni. Quindi ogni vostro aiuto ci permette di continuare ad andare avanti. Nonché partecipando alle iniziative di finanziamento, che forse è la maniera più piacevole, insomma, di contribuire. La prossima sarà domani sera al 360 qui a San Lorenzo. E ci andiamo a riascoltare lo spot appunto esplicativo dell'iniziativa che ci sarà appunto domani sera. A prestissimo. 60 gradi a San Lorenzo, Radio Onda Rossa presenta directamente desde Monterrey, México, original son del barrio, cumbia reggae. Prima e dopo il concerto, super DJ set con El Frente Cumbiero Romano, fiesta sonidera rebelde y tropical a cura di La Esquina del Sol, El Pinche Perro, Franico Calavera y La Reina del Fomento. Venerdì 13 maggio al 360 gradi in via degli Equi 57 a San Lorenzo, un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa. Allora, mentre sotto vanno gli Shameless, che ci permettono di ringraziare tutti quanti abbiamo incontrato nello scorso weekend. Eh sì, perché il bacchetto di Radio Onda Rossa è stato in tour. E quindi venerdì siamo stati all'XM24 a Bologna. Poi il sabato al CSOA May Day di La Spezia. Per poi chiudere domenica una matinée hardcore punk al GTA di Milano. E quindi ringraziamo tutte le bischelle, tutti i bischelli che ci hanno ospitato in questi spazi, nonché i gruppi da paura che abbiamo avuto modo di conoscere. E quindi grazie a tutti e a tutti per il sostegno. Ci vediamo presto in giro. Ed andiamo a presentare subito gli ospiti di questa sera. Ospitoni, eh? Ulderico, buonasera. Buonasera Dario, buonasera. Buonasera a tutti. E ci abbiamo anche il Pablinci. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, perché ci troviamo questa sera? No, dicevo, ci troviamo questa sera per presentare un'iniziativa interessante. L'andiamo un attimo ad annunciare, Ulderico. Ok, perfetto. Innanzitutto ti volevo ringraziare per questo spazio che ci hai concesso. L'iniziativa di cui parleremo è il primo festival metal antifascista che si terrà a Roma questo sabato, ossia il 14 maggio. Al Ben Ci Vengo Occupato, in particolare si chiama Metal Against Shit Fest, ospiterà un po' del meglio dell'underground romano e non, anche italiano, perché ci sono pezzi forti da tutto lo stivale. E niente, niente, sarà un festival incentrato non solo sulla condivisione della musica in quanto tale, ma anche per un messaggio che vogliamo mandare, ossia che quei cliché che girano, no? un po' dappertutto, dove no, il metallaro deve essere per forza affibbiato come un non militante ma magari simpatizzante di determinate politiche di stampo destrofilo, non è assolutamente vero. Ci sono un sacco di metallari antifascisti e questo festival vuole gridare questa cosa e la grideremo forte. Allora, a parte quello che sarà sabato e poi lo andremo a spiegare nel corso della trasmissione, parliamo un po' di quello che c'è stato prima, cioè delle esperienze di quanti, insomma, tra noi, pur seguendo il metal, si sono trovati in un ambiente magari non congeniale. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quali sono le tue esperienze a proposito? Beh, prima ti raccontavo l'aneddoto del No Mercy Festival 5, che bel luogo a Milano nel 2000, in cui io ero praticamente ventenne. Vidi una marea di maglie inneggianti ad inni della destra che fu, no? Sia italiana che di altro stampo mitteleuropeo. Onestamente questa cosa mi schifò un poco. Mi fece all'epoca ancora un piccolo magari per combattere determinate battaglie, mi allontanai un po' dalla scena. Però venni in contatto con tutto quello che è il circuito del do it yourself, dei posti occupati, al di fuori di che si è incentrato magari più su un discorso punk, crust o che sia, voglio dire. Comunque ho incontrato tanta gente che ha avuto il mio stesso disagio e nel corso degli anni ha cercato di dire, organizzare delle cose per far capire che non siamo tutti così, voglio dire, anzi, la maggior parte sono di tutt'altra pasta. Perché no, diciamolo un po' storicamente, no? Il metal in generale, superficialmente, si è fatto sempre forza del fatto che la sua longevità era dovuta proprio al fatto di essere apolitico, distante da un discorso appunto schierato politicamente, e quindi forte di una grande passione per la musica andava avanti vivo e vegeto. Poi diciamo che non è così semplice questa definizione, però è vero a tratti. È vero a tratti, perché se prendiamo, innanzitutto penso che sia un genere che ha spinto, ma è abbastanza largo come discorso, perché ha una marea di sottogeneri. Penso che sia il genere madre con il numero più alto di marea di sottogeneri, no? Di numero di sottogeneri. Beh, nato a inizio anni 70, insomma, da Black Sabbath e compagnia bella. Nel corso di 40 anni ha avuto vari sottogeneri. Certo, certo. Però molte sottoculture relative al, magari anche alla frangia, ma partendo anche dal thrash metal, che si è andato proprio a mischiare con l'attitudine punk, voglio dire, non aveva niente a che fare con ideologie destrofile, come non aveva niente a che fare tutto il movimento death grind nato, no, a fine anni 80 con non mi dispicco, no, Napalm Death, Carcass che ha fatto le ossa negli squat, voglio dire. Sì, no, poi invece in parallelo si andavano emergendo tutta quella scena black metal nazistoide, no? Sì. Tipo, sì. Non so, Burzum, oppure non so se vi vengono in mente altri nomi. Beh, Mayhem, magari più famosi così, però molti si sono discostati, vabbè. penso che ne sappiamo tutta la diatriba all'interno dei Mayhem, che era proprio comunque un litigio tra due estremità, perché Euronymous era ipercomunista. L'estremismo politicamente, come punto di vista dittatoriale, penso che sia errato da tutte e due le parti. Però diciamo, a parte diciamo, la prima scena black metal con atteggiamenti appunto fascistoidi e ultranazionalisti, questo filone è continuato negli anni, no? Tu appunto come esempio, solamente come un esempio, andavi a ricordare appunto il festival a cui hai partecipato, no? Sì, il No Mercy Festival. Cosa è successo, così raccontiamo un po'. Beh, niente, come ti dicevo, c'erano i Dark Funeral, come al di fuori di quello che possa essere poi il loro messaggio, cosa vogliono trasmettere loro, discorsi adolescenziali come il satanismo, no? Perché è di adolescenziale che stiamo parlando. Quel culto che c'è, che trasmettono, che deve essere per forza assoggettato a determinate cose di spicco di destra o filo nazista, che magari qualcuno non lo voleva neanche dire, ma è un misunderstanding di colui che va a ascoltare e pensa di farsi figo esponendosi in quella maniera. Poi chi lo sa la verità dov'è, no? Però in fin dei conti bisogna prendere una posizione. Noi crediamo di prendere una posizione contro questo discorso destrofilo. No, anche come atteggiamento, no? Poi queste gli accostamenti verso una politica di destra poi si portano dietro un sacco di altre cose, che è il machismo, l'omofobia, il razzismo in generale. Sì, sono tutte cose che non fanno parte del metal a 360 gradi, assolutamente, dobbiamo dirlo, gridarlo forte. Va bene, io direi, dopo un po' di chiacchiere iniziali, magari andiamo a presentare uno dei gruppi che parteciperanno al fest, che sarò prontissimo a, non so, vuoi sceglierlo? Intanto che cerco. Guarda, potremmo mandare uno dei gruppi di spicco. Possiamo mandare i Blood Truth, che sono un ensemble brutal death metal di Perugia. Hanno appena sfornato un disco che si chiama Obedience, sotto Unique Leader. Il pezzo si chiama Forsworn. Ed è prontissimo, loro sono i Blood Truth. Of the sun for the boy who's on the butcher to you. E questi erano i Bloodtruth. Allora, nella realizzazione appunto della scaletta del festival, come vi siete mossi? Quali sono? Ecco, vi alzo il cursore magari. Ok, guarda, innanzitutto ti dico che il festival è nato quasi per scherzo, ma per rabbia di fondo, no? Perché in realtà era un'idea che ci balenava nella testa. A noi, come mi dicevi, anche a voi vi è balenata nella testa. La scintilla che ha fatto scattare il tutto è quando abbiamo visto il manifesto di Casabau con Lemmy, abbiamo pensato, abbiamo detto dai, no, adesso basta, adesso dobbiamo dire le cose come stanno. Che non è un'icona vostra, anzi. Ne ha avute sette di fidanzate di colore. Ci sono più di una sua dichiarazione dove dice che il razzismo e comunque le ideologie destrofile siano una stronzata, una merdata. Parla di shit proprio, anche Dio, no? Dio Lemmy. E niente, ci siamo mossi innanzitutto proponendolo al posto che ci ospiterà, che è stata la prima scelta, perché praticamente l'idea è anche di riportare un po' il metal dal metal estremo dove è nato, quindi negli squat, come ti dicevo prima, e di fare una cosa a livello di accessibilità al più alto numero di persone, perché deve essere una cosa che aggrega innanzitutto, quindi con una sottoscrizione di 3 euro bassissimo. Oggi come oggi non 10 gruppi, ricordiamolo quanti gruppi sono 10 gruppi da tutta Italia, quindi capirete che insomma probabilmente nella migliore delle ipotesi andiamo a pari. La sottoscrizione indicata andrà appunto a coprire unicamente le spese. Sì, alla fine abbiamo contattato la maggior parte, la metà dei gruppi sono gruppi dell'underground estremo romano capitolino, quindi in fondo siamo tutti amici, quindi abbiamo avuto una disponibilità apertissima da tutti quanti. Poi quando ci siamo mossi a chiedere un po' di nomi, perché logicamente non ci andava di fare una cosa solo relativamente ristretta al romano, no? E volevamo dare più una risonanza più a livello italiano, diciamolo così, per i contatti che abbiamo, no? Un po' più grande. Abbiamo contattato logicamente band di gruppi un po' più grandi tra virgolette, che ho comunque un background all'altezza, no? Quelli che abbiamo appena sentito e Bloodtruth sono, per dire, reduci da un tour con Nile Suffocation in tutta Europa, cioè non sono gli ultimi arrivati, voglio dire. Tutti i gruppi, tutti col rimborso praticamente. L'unica cosa che hanno sentito il nostro programma, quello che volevamo trasmettere con questo festival, hanno accettato di venire a suonare solo con rimborso benza, qualche birra e da mangiare e dormire, voglio dire. È un puro spirito punk. Allora, parliamo un po' di quello che c'è sempre stato negli ambienti che poi viviamo non appena possiamo, no? Diciamo che anche gli spazi che viviamo non sono liberi da pregiudizi tra virgolette sul metal. Non è che gli spazi occupati hanno dato in passato un grandissimo spazio al metal, no? No, proprio per questa voce di fondo, che ci sia questo accostamento quasi indotto, no? Per da dicerie, sì, comunque magari qualcuno può aver la puzza sotto il naso, però non è il caso. Era appunto, insomma, per andare a ricollegarmi sullo spirito iniziale, penso che da cui è nata questa iniziativa, appunto. Da metallari antifascisti che vivono gli spazi occupati, benissimo, va tutto ok, frequentiamo gli spazi, andiamo alle iniziative punk hardcore con grande gioia, ci divertiamo, però perché non suonare anche a fare un festival in quella matrice? Magari abbiamo aspettato un po' di tempo, però dai, ce l'abbiamo fatta. E insomma, e non è il primo, però. No, no. Magari il primo a Roma, però proprio recentemente ci sono state. Sì, un mese e mezzo fa hanno organizzato su Milano il FAC NSBM, che sta per National Socialism Black Metal, no? Sai, quella corrente apertamente destrofila del black metal. Hanno i ragazzi, degli amici Ricky De Grumo di Modena, ha messo su quest'altra manifestazione, è andata molto bene, c'è stata affluenza, molti metalheads sono andati al concerto, si sono divertiti in puro spirito antifa, e ne faranno un'altra tipo fra due settimane, i primi di giugno al Next Emerson a Firenze, organizzato da altri compagni metallari che la pensano come noi, con tra gli altri, no, mi vengono in mente i Collapse, gran band thrash metal, gruppo thrash metal dichiaratamente antifascista, macine da guerra, insomma. E va bene, senti, andiamo a presentare un'altra chicca, tra l'altro forse in anteprima. Sì, in anteprima nazionale, mondiale, credo, perché gli amici degli Emophagus, non dovrei neanche dirvi chi sono se... No, ma diccelo. Vabbè, sono un ensemble death metal che va avanti da più di 10 anni, ha calcato palchi europei come grandi, come l'Obscene Extreme, voglio dire, roba di una caratura abbastanza pesante. Quest'estate uscirà il nuovo disco che si chiamerà Stream of Shadows, e ci è andato gentilmente un brano in anteprima, nessuno l'ha ancora ascoltato, noi e voi ascoltatori di Radio Onda Rossa sarete i primi. Allora, il titolo del pezzo è Energetic. Quindi Energetic, loro sono gli Emophagus, in anteprima mondiale su Radio Onda Rossa. Dai. We'll be right back. Allora, un altro gruppo che sarà presente al Metal Against Shit sono gli Injury Broadcast, e questa sera abbiamo ospite Pablo. Allora, eccolo. Vabbè, Injury Broadcast, insomma, che dire, se frequentate gli spazi occupati di Roma per concerti punk hardcore, c'è un elemento metal che gira da anni, sono gli Injury Broadcast, suonano da anni proprio nella scena punk hardcore, è totalmente naturale che voi siete insomma presenti in questo festival. Beh, assolutamente sì, cioè, diciamo che finalmente in un festival metal. Esattamente, non che concerti solo con gruppi metal non ci siano stati nei posti occupati, però ecco, rispetto magari a quella che era la media di concerti di altri generi, sono sempre stati molto pochi, tant'è vero che appunto, come dicevi tu, spesso ci siamo trovati in concerti che erano prettamente o punk o hardcore o comunque sui generis. Detto questo, è anche vero che comunque noi, facendo trash, è un genere che parecchio si accosta bene comunque anche a questo tipo di generi, ecco. Poi diciamo che, per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda comunque gli altri due componenti degli Injury Broadcast, abbiamo, anche prima di conoscerci e di suonare, comunque frequentavamo e suonavamo in certi posti con magari altri gruppi che ormai non ci sono più, anche solo magari per sostenere un'iniziativa o andare a un concerto anche non metal. Io stesso sono andato anche a un sacco di serate elettronica, reg, ragamuffin, insomma, questo diciamo che, come dicevi tu, poi chiaramente si presenta un festival del genere, come possono mancare gli Injury Broadcast. È un piacere aggiunto, insomma, al fatto di insomma al fatto insomma di vivere comunque gli spazi. Assolutamente sì, spazi che vanno difesi, spazi che vanno supportati, così come vanno supportati anche locali che fanno suonare determinati generi. Adesso mi viene da pensare appunto a quello che è capitato appunto al Dal Verme, come, dove io più di una volta e con più di un gruppo metal ci ho suonato, per cui ci suonai anche con i 66 Dal Verme, per esempio, con gli Injury Broadcast, e poi adesso non mi sovviene, però ecco, ci ho suonato più di una volta con più di una band, e ci ho visto chiaramente anche molti concerti e molte serate anche di altro tipo. Certo, no, le intersezioni poi tra musicisti e il modo di proporre una certa proposta culturale fuori da logiche di mercato si vanno poi ad intersecare, no? Beh sì, chiaramente sono il discorso, chiaramente, come abbiamo detto già in principio, sarebbe una cosa lunghissima andare a vedere tutti, certo, i sottogeneri, tutti i gruppi, chi si è scostato da certe dinamiche, chi no, chi lo dice apertamente, chi no. E il metal è talmente vasto che fare questo tipo di lavoro sarebbe piuttosto lungo. E comunque qui, ecco, appunto, entra in genere tutta una serie di fattori. Lasciare la musica in assoluto slegata da quelli che sono contesti politici non è facile, perché comunque la musica è fatta di persone, le persone hanno delle idee. Diciamo che non credo sia un caso che questo festival insomma abbia luogo al Banshee Manga Squat, no? Esattamente, proprio per questo siamo comunque tutti amici che ci conosciamo già da tanto e che frequentiamo determinati posti occupati, determinati locali di Roma, e non solo di Roma, anche di altri posti in Italia. E che poi a parte insomma la condivisione di generi musicali, c'è anche una condivisione di valori, di... Assolutamente sì, assolutamente sì, questo è chiaro, anche perché insomma risulterebbe anche difficile andare d'accordo con chi la pensa all'opposto, no? Comunque sì, sicuramente non facile. Ecco, anche all'estero troviamo forme di questo tipo, tant'è vero che per esempio al Wacken, che è uno dei festival più, forse uno dei più vecchi, è di certo il più longevo, e c'è sempre, che io ricordi, sulla pagina ma anche all'ingresso, sì, sì, sì, ci sono sempre delle frasi che ricordano che i nazi o comunque i fasci in genere non sono benvenuti. O per esempio, ora mi viene in mente adesso, prima che avete citato lo Sin Extreme, troviamo la scritta in alto Freak Friendly Festival. Freak Friendly forse con intolleranza e cose di questo tipo, atteggiamenti tipici della destra, sono due cose che cozzano un po', no? Direi. Va bene, senti, io andrei a passare un pezzo appunto degli Injury Broadcast. Yo. We'll be right back. Ed ecco appunto gli injury broadcast. Allora, no, un paio di domande appunto sulla fase della realizzazione del festival. Ha creato nell'ambiente metal la proposta di questo festival qualche attrito, qualche incertezza, cioè è emerso qualcuno, i nodi sono venuti al pettine, diciamo? Alla fine, quando ti schieri in maniera netta da qualsiasi parte, lo possiamo pure allargare a tante cose, no? pure alla filosofia o ad altre cose, no? È normale che porti dei nodi al pettine. Non per la scena romana, ma dato che comunque ha girato tanto l'evento, adesso grazie a internet, a cose come Facebook, è semplicissimo spammare, tra virgolette, far arrivare la notizia dall'altra parte del mondo. Quindi magari sì, sul territorio italico abbiamo... Questa è una piccola gag con Ricky De Grumo, no? L'organizzatore del festival di cui parlavamo prima, che ci postavamo, no? gli screenshot con le minacce più colorite che ci sono arrivate. Tipo quella che mi ricordo adesso è tipo... vi meritate l'ISIS, dovrebbe essere un nuovo Bataclan, cose del genere, cioè cose che poi però va in fondo a spulciare chi te l'ha mandata quella cosa, te l'ha detta quella cosa, e ti trovi di fronte a fondamentalmente dei ragazzetti, cioè sono persone che magari non hanno fatto ancora un percorso culturale completo, e sono attratte dalle cose che invece noi andiamo a dir di no, perché antifascismo non è solo inteso come un discorso insomma, politico. Se parti così e non hai fatto un percorso, cioè già un punto di partenza errato, cioè, sì, è voglia. Cioè, è già preoccupante, insomma, come punto di partenza se c'è questo atteggiamento, no? Ma guarda, per quanto mi riguarda, queste qua sono le cose che invece mi danno uno sprono ad andare avanti a organizzare concerti del genere, perché io sento di dichiararmi antifascista fin quando ci sarà ancora qualcuno che dichiarerà l'opposto. Nel 2016 c'è ancora chi si dichiara fascista, anche nel metal, certo. Allora io, è un dovere quasi dichiarare quello che penso e coinvolgere chi la pensa come me. Te lo dico, Dario, non sono pochi, sono la maggior parte quelli che la pensano come me. Bene, bene. Allora, senti, allora continuiamo a presentare qualche gruppo che parteciperà sabato. Sì, sì, mi piacerebbe presentare il gruppo del... No, logicamente questa non è... Questo festival non è solo una mia idea, anzi... un'idea a quattro mani, l'altro Damian Cristiani, no? È alle prove adesso, alle prove con il suo gruppo, proprio per prepararsi per il festival, e quindi non è potuto essere con noi. E il suo gruppo sono gli Airlines of Terror, un ensemble di death grind con i controcoglioni, lasciatelo dire, tipo Terror from the Air. Sul podio per le uscite del genere, sì. 2015 per sì, me, a livello mondiale. Un disco, sì, confermo, è l'ultimo disco, è un discone. Sì. Il gruppo io non l'ho mai visto dal vivo, ma sono molto curioso, insomma. Spaccano il culo. Se riescono, insomma. Vabbè. Va bene, ce li andiamo ad ascoltare. Sì, loro sono gli Airlines of Terror, e il pezzo è UFO Tesla. Don't join. No, I'm burning all the violence. Insomma, allora, Festival Metal. Sì. In uno spazio occupato. Sì. In uno squat. Sì. Dove in genere si sono organizzati migliaia di altre iniziative, punk hardcore, crust, eccetera, eccetera. E similari. E similari. E c'è, c'è una novità. Cioè, per chi sì. è abituato a frequentare gli squat e gli spazi occupati, è stato sempre genericamente abituato ad una certa flessibilità di orari, dove insomma, se non erano le 11, mezzanotte, il concerto non iniziava. Non è questo il caso. Non è questo il caso. Andiamolo proprio a sottolineare, perché comunque, essendo 10 gruppi, di cui 4 vengono da fuori Roma, non si possono fare le 4 di mattina, quindi si avrà una programmazione di orari che sono già stati comunque dichiarati sull'evento ufficiale su Facebook. Dichiarati ed accettati. Sì, per forza. E come ci ha detto Demian, non avranno a questo giro la flessibilità del punk, avranno la flessibilità del metallo, che è inflessibile. Certo. Quindi i concerti inizieranno alle 7. Alle 7 e chiuderanno alle 2:30 e spicci. Ci vuoi insomma dire appunto la scaletta come sarà? Beh, la scaletta, apriranno i Sumera, che sono un gruppo death groove di Roma. Poi ci saranno gli U da Potenza con una proposta. No, piccola parentesi, perché tempo fa, in qualche puntata precedente, abbiamo appunto presentato il collettivo di cui gli U fanno parte, che è Dark Skies Above Us. Sì. Ed è appunto un collettivo di gruppi più che mai black metal, sì, o black di metal estremo, dichiaratamente antinazisti e antifascisti. È un collettivo che organizza molto spesso delle compilation benefit, insomma, per lotte più diverse lotte, insomma. E no, questa era la piccola parentesi. Sì, non solo compilation, anche concerti organizzati. Anche concerti, sì. No, era appunto per sottolineare che poi, insomma, i gruppi che partecipano a questo festival, alcuni di loro, insomma, sono attivisti, insomma. Sì, certo. E quindi loro ci proveranno un black metal con tinteggiature crust. Dopo suoneranno i Veranos Dogs, nuova formazione romana dedita ad un death grind di vecchia matrice. L'abbiamo visto ultimamente, insomma, aprire ai Doom, allo Strike. Sì. Di vecchia matrice. Dopo ci saranno appunto gli Airlines of Terror, che abbiamo appena ascoltato. Dopo avremo i Bloodtruth da Perugia. I Deceptionist da Roma, che sono un gruppo romano ma non hanno ancora mai suonato a Roma, quindi per gli amici e non, forse sarà non dico l'ultima occasione, però per un annetto, se li volete venire a vedere dal vivo, è l'occasione giusta. Poi suoneranno gli Ogre da Perugia, che fanno Trash Death Grind, sempre vecchia scuola. I Dottor Gore, anche un ensemble brutal death metal conosciutissimo nel circuito estremo romano e non, e chiuderanno i compagni del cui presente Pablo, della sessione ritmica maligna romana, gli Injury Broadcast. Quindi non tardate, perché il menù è forte e si inizia subito a pestare. Benissimo. Allora, magari andiamo a presentare un altro brano, sempre dalla scaletta che avete preparato. se hai qualche proposta. Sì, io farei ascoltare il pezzo che ho portato dei Deceptionist, che veramente sarà, penso, una realtà death metal di cui si parlerà tantissimo, perché sono veramente una spanna sopra a tanti gruppi europei e mondiali, sono veramente forti. Il pezzo è Sunshine, si intitola, dal loro ultimo EP, con cui poi tra parentesi hanno anche, che gli ha aperto la strada per la firma per la Unique Leader, un'etichetta così, niente, però niente l'ultima che etichetta trovata. Va bene, allora la versione, quindi Sunshine appunto dei Deceptionist, sempre su Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa. Allora erano i Deceptionist. Allora, quindi andiamo insomma a chiudere la trasmissione, rinnovando l'invito a partecipare questo sabato 14 maggio al Metal Against Shit Fest al Ben Ci Vengo Occupato Roma. Ok, no, giusto per essere chiari, insomma, chi è il benvenuto? Quale attitudine? Beh, qual è l'attitudine giusta? L'antifascismo in generale sarebbe tecnicamente chi non vuole subire repressioni di alcun genere, che possono essere dal punto di vista razziale, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista attitudinale, in qualsiasi matrice essa sia. Cioè, sono tutti benvenuti queste persone. Quindi se siete intolleranti, andate altrove. Eh sì, certo. Non siete ben accetti. Va bene, allora. Qualche tempo fa abbiamo dato spazio da questi microfoni a ad alcuni compagni e compagne di Bologna che durante la manifestazione del 25 aprile, appunto il corteo per la liberazione dal nazifascismo che ha avuto luogo a Bologna, e hanno organizzato uno spezzone appunto del corteo, e appunto di uno spezzone skin punk e straight edge. Allora, okay. E insomma, credo che l'idea sarebbe auspicabile, insomma, da replicare. No, vabbè, diciamolo. Parliamo di antifascismo. Nasce insomma l'esigenza nelle sottoculture che nascono magari musicali, però insomma poi sviluppandosi si sviluppa una coscienza politica, quindi nasce anche l'esigenza di iniziative di questo genere. Poi però nelle strade, nei cortei, nelle manifestazioni, poi tra di noi siamo sempre pochi, no? Beh, sì, perché credo, ma adesso magari ci discostiamo un po', ma anche no, dal discorso, perché entriamo più in un discorso di matrice politica a sé stante, eliminando il discorso musicale. C'è poca coscienza politica. Io ho notato un declino dalle quattro giornate di Napoli del 2000, da Genova, quando c'è stata una forte repressione da parte dello Stato e delle forze dell'ordine. La gente un po' si è spaventata, un po' quella scatola cubica a cui molti hanno dipendenza li ha distolti magari dai veri problemi che poi si porteranno avanti nella vita, perché a quello serve la televisione, ricordiamolo, a non farvi pensare. Quindi c'è stata anche una crescita di quel tipo di generazione che a parer mio ha perso, non li ha proprio mai conosciuti determinati valori, perché non t'ho detto, un po' magari chi ne era già parte è rimasta un po' scioccata per fatti che sappiamo tutti, non dobbiamo stare qui ad elencare, un po' per quello, perché comunque è stata lobotomizzata. Insomma, le abbiamo sentite anche oggi le sentenze a seguito dei fatti del 15 ottobre, che partono insomma da sanzioni appunto economiche, fino ad arrivare ai 9 anni di reclusione, insomma. Beh, un po' esagerato. Bisognerebbe veramente, a questo punto dovrebbe essere arrivato il momento di scendere tutti quanti insieme e però, dire di no. Io appunto, insomma, colgo l'occasione, appunto, perché per chi ci ascolta, insomma, tra gli avventori e le avventrici del Metal Against Shit, per ricordare due appuntamenti, appunto, per non abbassare la guardia: domani 13 maggio Casa Pound Not Welcome, quindi verso il corteo del 21 maggio, un'assemblea pubblica dalle ore 18 alla facoltà di fisica alla Sapienza. Quindi non consentiamo a fascisti e razzisti di qualsiasi millennio di portare per le strade del centro di Roma il loro slogan e i loro vessilli di mussoliniana memoria. Questo paese e città ripudiano il fascismo e non dimenticano le aggressioni fuori da scuole e università o per le strade e all'uscita dei locali o dei centri sociali, le connivenze mafiose e politiche e il loro asservimento ai poteri forti. Quindi un invito a tutti e a tutte ad un'assemblea cittadina di, appunto, che ci sarà questo venerdì 13 maggio alle ore 18 presso la facoltà di fisica La Sapienza, per discutere appunto insieme di come impedire la manifestazione di Casa Pound, di come far sentire ancora una volta la voce della Roma meticcia, solidale, antifascista, contro la chiusura delle frontiere, contro tutte le guerre. Questo venerdì, appunto, alla facoltà di fisica dalle ore 18. E un altro, proprio sabato 14 maggio, un corteo antirazzista sulla Tiburtina, appunto, per la solidarietà a chi fugge da guerre e miserie, contro l'Europa della guerra, dei muri e delle frontiere, contro il business dell'accoglienza, contro fascisti e razzisti che speculano sulla guerra fra poveri. Il 14 maggio, appunto, un corteo in partenza dalle ore 16 a Ponte Mammolo. Insomma, sarebbe bello che qualcuno all'ascolto, insomma, che è pronto a partecipare all'iniziativa antifascista, certo, di sabato al Benchivenga Squat, insomma, sarebbe bello incontrarci, appunto, anche da altre parti, anche da altre parti, insomma. E questo era, insomma, per rilanciare appuntamenti non solo negli spazi in cui viviamo, appunto, anche per le strade, e questo, insomma. E quindi ci vediamo sabato 14 maggio. M'ero dimenticato il mese. Noi di Radio Onda Rossa saremo presenti a registrare l'intero live, poi lo ripasseremo nelle prossime puntate, appunto, di Do It Yourself Invasion, e lo posteremo poi posteremo i concerti integrali, appunto, sul sito di Radio Onda Rossa. E grazie Ulderico, grazie Pablo, grazie a te, grazie a voi. Ops, no, non c'eri. Dicevo, grazie a te, anche grazie a Radio Onda Rossa, che era, certo. Va bene, grazie a voi. Allora ci vediamo sabato. Grazie. Minuti, sempre come al solito, andiamo a scavallare quella che è la barriera delle ore 22, che in teoria dovrebbe andare a separare Do It Yourself Invasion con Apostasia. Però siccome noi siamo contro le divisioni e siamo tutti sulla stessa barca, ricordi, spiediti. Quindi noi di Do It Yourself Invasion ne approfittiamo. Quindi l'appuntamento a risentirci è per giovedì prossimo dalle ore 21 alle ore 22, dove andremo a presentare un altro festival interessante, che è una due giorni, che è quella del Brett Fest. Quindi l'appuntamento è a giovedì prossimo dalle ore 21. E quindi un saluto a tutte e a tutte all'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della libertà personale. Un abbraccio. Ci vediamo prima del Metal Against Shit di sabato, domani sera al 360. E quindi una possibilità appunto di sostenere direttamente Radio Onda Rossa. Quindi che è una radio che ha necessario bisogno del sostegno di tutte e tutti per continuare a vivere. Quindi domani 13 maggio al 360 gradi il Frente Cumbiero Romano. Quindi un DJ set con la direzione artistica, diciamo. Anche se direzione è una brutta parola, però insomma mi tollererà la cara Shibop delle Schiena del Sol. Quindi è il sound del barrio live dalle 22:30 appunto al 360 gradi. Dai, a domani, rimanete all'ascolto. Apostasia, carichissimi. Dai, sompano, sompano. Non si tengono gli apostati, eh?